Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Fecero il viaggio fino a B in silenzio, lungo il mare che quieto appassiva i colori del cielo. Trovarono il maresciallo in ufficio e in evidenza sul tavolo un fascicolo intestato a Diego Marchica, detto Zicchinetta, da qualche mese dimesso dal carcere per beneficio d'amnistia. E in evidenza sul tavolo del maresciallo il fascicolo, per certe confidenze ricevute sul gioco, della Zecchinetta, appunto, che il Marchica praticava al circolo dei cacciatori, e perdendo somme piuttosto grosse e prontamente pagandole, il che per un bracciante disoccupato sarebbe stato praticamente impossibile se segrete e certamente illecite risorse non avesse avuto. Nato nel 1917, il Marchica aveva cominciato la sua carriera nel 1935. Furto con scasso, condannato. Nel 1938, incendio doloso. Coloro che lo avevano con testimonianza fatto condannare per il furto ebbero i covoni del grano bruciati sull'aia. Per insufficienza di prove, assolto. Nell'agosto del 1943, rapina a mano armata. Detenzione di armi da guerra, associazione per delinquere. Giudicato dagli americani, assolto. Non si capiva con quale motivazione. Nel 1946, appartenenza a banda armata. Preso in un conflitto a fuoco con i carabinieri, condannato. Nel 1951, omicidio. Insufficienza di prove, assolto. Nel 1955, tentato omicidio in rissa, condannato. Interessante era l'imputazione di omicidio che aveva avuto nel 1951. Un omicidio commissionato, a quanto risultava dalle confessioni rese ai carabinieri, dai suoi complici. Poi le confessioni, si capisce, squagliarono in istruttoria come neve. I due che avevano confessato, al giudice e ai medici, esibirono lividi, escoriazioni e anchilosi, si capisce dovute alle torture inflitte loro dai carabinieri. Curioso era che il Marchica, che era stato il solo a non parlare, non mostrasse al giudice un qualche livido. Un brigadiere e due carabinieri furono rinviati a giudizio per le confessioni estorte con torture, ma furono assolti per non aver commesso i fatti. Le confessioni venivano dunque ad essere implicitamente ritenute spontanee, ma il caso non era stato più riaperto, o forse, ancora nel labirinto della giustizia, le carte scorrevano. Le note definivano il Marchica delinquente abilissimo ed accorto, sicario di assoluta fiducia, ma capace nel gioco e nel vino di improvvise svampate, come il tentato omicidio in rissa dimostrava. C'era anche, nel fascicolo, un rapporto relativo a un comizio dell'onorevole Livigni, che circondato dal fiore della mafia locale, alla sua destra il decano Don Calogero Guicciardo, alla sua sinistra il Marchica, era apparso al balcone centrale di casa Alvarez, e a un certo punto del suo discorso aveva testualmente detto: «Mi si accusa di tenere rapporti coi mafiosi, e quindi con la mafia, ma io vi dico che non sono finora riuscito a capire che cos'è la mafia e se esiste, e posso in perfetta coscienza di cattolico e di cittadino giurarvi che in vita mia non ho mai conosciuto un mafioso». Al che, dalla parte di via La Lumia, al limite della piazza, dove di solito i comunisti si addensavano quando i loro avversari tenevano comizio, venne chiarissima la domanda: «E questi che stanno con lei che sono? Seminaristi?» E una risata serpeggiò tra la folla mentre l'onorevole, come non avesse sentito la domanda, si lanciava a esporre un suo programma per il risanamento dell'agricoltura. Questo rapporto, tra le carte che riguardavano il Marchica, serviva a dare avvertimento della protezione di cui, in un eventuale arresto, forse il Marchica avrebbe goduto. Il maresciallo di B sapeva il suo mestiere. «C'è movimento», disse il vecchio. «C'è un movimento che non mi piace. Gli sbirri tessono qualcosa». «Tessono vento», disse il giovane. «Non metterti in testa che gli sbirri siano tutti stupidi. Ce ne sono che, a uno come te, possono togliere le scarpe dai piedi e tu cammini scalzo, senza accorgertene. Nel 35, ricordo, c'era qui un brigadiere che aveva il fiuto di un bracco e anche la faccia aveva da cane. Succedeva un fatto e quello si metteva sulle peste, ti prendeva come si prende una lepre appena smammata. E fiuto aveva, figlio di... Era nato sbirro, così come si nasce preti o cornuti. Non credere che uno è cornuto perché le corna gliele mettono in testa le donne. O si fa prete perché a un certo punto gli viene la vocazione. Ci si nasce. Ed uno non si fa sbirro perché a un certo punto ha bisogno di buscare qualcosa o perché legge un bando d'arruolamento. Si fa sbirro perché sbirro era nato. Dico per quelli che sono sbirri sul serio. Ce n'è, poveretti, che sono paste d'angelo. E questi io non li chiamo sbirri. Un galantuomo come quel maresciallo che c'era qui durante la guerra, come si chiamava? Quello che stava bene con gli americani. Ma quello sbirro lo vuoi chiamare? Favori ne faceva e noi gliene abbiamo fatti, cassa di pasta, dameggiane d'olio. Un galantuomo. Non era nato sbirro, ecco, ma stupido non era. Noi chiamiamo sbirri tutti quelli che sul cappello portano la fiamma col V puntato E. Ma lo portavano il V puntato E, lo portavano. Io mi scordo sempre che il re non c'è più. Ma tra loro ci sono gli stupidi, ci sono i galantuomini e ci sono gli sbirri veri, gli sbirri nati. E così è coi preti. Vuoi chiamare prete padre Frazzo? Il bene che si può dire di lui è che è un buon padre di famiglia. Ma padre Spina, ecco uno che è nato prete. E i connuti? Vengo coi connuti, ora. Uno scopre le tresche che gli fanno in casa. Fa un macello, non è cornuto nato. Ma se fa finta di niente, o con le corna si dà pace, e allora è nato cornuto. Ora ti dico com'è lo sbirro nato. Arriva in un paese. Tu cominci ad avvicinarti a lui, a fargli delle gentilezze, ad arruffianarti. Magari se ha moglie porti tua moglie a fargli visita. Le mogli diventano amiche, diventate amici. La gente vi vede assieme e pensa che facciate un canestro d'amicizia. E tu ti illudi che lui ti veda come una persona gentile, di buoni sentimenti, a prova d'amicizia. E invece per lui tu sei sempre quello che risulta dalle carte che tiene in ufficio. E se hai avuto una contravvenzione, per lui sei in ogni momento, anche mentre bevete il caffè in salotto, uno che ha avuto una contravvenzione. E se cadi a fare qualcosa che è vietata, una piccola cosa, anche se siete tu e lui soli, e nemmeno il Padre Eterno vi vede, ti fa la contravvenzione come niente. Figurati poi se cadi in qualcosa di più grosso. Nel 27, mi ricordo, c'era qui un maresciallo che in casa mia faceva, come si suol dire, casa e bottega. La moglie e i figli non c'era giorno che non venissero da noi, e c'era tanta amicizia che figlio più piccolo, un bambino di 3 anni, chiamava mia moglie zia. Un giorno me lo vedo spuntare in casa con un mandato d'arresto. Era il suo dovere, lo so. Erano tempi brutti, c'era Mori. Ma come mi ha trattato? Mai visti, mai conosciuti. E come ha trattato mia moglie quando è andata in caserma per sapere qualcosa? Un cane arrabbiato. Cusi mitti culi sbirri, giusto dice il proverbio, c'ha pizza l'uvino e li si carri. E con quel maresciallo io ci ho rimesso davvero vini e sigarri, che a scialo beveva il mio vino e fumava i miei sigari. Nel 27, disse il giovane, c'era il fascismo, la cosa era diversa. Mussolini faceva i deputati e i capi di paese, tutto quello che gli veniva in testa faceva. Ora i deputati e i sindaci li fa il popolo. Il popolo, sogghignò il vecchio. Il popolo. Il popolo cornuto era e cornuto resta. La differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la democrazia lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace, alle proprie corna. Siamo al discorso di prima. Non ci sono soltanto certi uomini a nascere cornuti, ci sono anche popoli interi, cornuti dall'antichità, una generazione appresso all'altra. Io non mi sento cornuto, disse il giovane, e nemmeno io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri, come se ballassimo. E il vecchio si alzò ad accennare dei saltelli di danza e voleva figurare l'equilibrio e il ritmo del camminare sulle corna, da una punta all'altra. Il giovane rise. Sentirlo discorrere era un piacere. La fredda, astuta violenza per cui in gioventù era stato famoso, il calcolato azzardo, la prontezza di mente e di mano, tutte le qualità, insomma, che lo avevano portato al rispetto e alla paura di cui era circondato, a volte parevano ritirarsi da lui come il mare dalla riva, lasciando alla sabbia degli anni vuoti gusci di saggezza. «Diventa filosofo a volte», pensava il giovane, ritenendo la filosofia una specie di gioco di specchi in cui la lunga memoria e il breve futuro si rimandassero crepuscolare luce di pensieri e distorte incerte immagini della realtà. Ma a momenti, ecco che veniva fuori l'uomo duro e spietato che era stato. E curioso era che quando ritrovava il suo più duro e giusto giudizio sulle cose del mondo, le parole corna e cornuti grandinassero nei suoi discorsi in significati e sfumature diverse, ma sempre ad esprimere disprezzo. «Il popolo, la democrazia», disse il vecchio rassettandosi a sedere, un po' ansante per la dimostrazione che aveva dato del suo saper camminare sulle corna della gente, «sono belle invenzioni, cose inventate a tavolino, da gente che sa mettere una parola in culo all'altra e tutte le parole nel culo dell'umanità». Con rispetto parlando. Dico con rispetto parlando per l'umanità. Un bosco di corna, l'umanità. Più fitto del bosco della ficuzza quando era bosco davvero. E sai chi se la spassa a passeggiare sulle corna? Primo, tienilo bene a mente, i preti. Secondo, i politici. E tanto più dicono di essere col popolo, di volere il bene del popolo, tanto più gli calcano i piedi sulle corna. Terzo, quelli come me e come te. È vero che c'è il rischio di mettere il piede in fallo e di restare infilzati, tanto per me quanto per i preti e per i politici. Ma anche se mi squarcia dentro un corno, è sempre un corno, e chi lo porta in testa è un cornuto. La soddisfazione, sangue di Teo, la soddisfazione, mi va male, muoio. Ma siete dei cornuti. E a proposito, quel cornuto di Parrinietto mi fa venire sospetti. In questo movimento di sbirri la sua zampa ci deve essere per forza. Ieri incontrandomi la sua faccia ha cambiato di colore. Ha finto di non vedermi ed è subito svicolato. Io dico, t'ho lasciato fare la spia, perché lo so, devi tirare a campare, ma devi farlo con giudizio. Non è che devi gettarti contro la Santa Chiesa. E Santa Chiesa voleva dire di se stesso intoccabile e del sacro nodo di amicizie che rappresentava e custodiva. E continuando a rivolgersi a Parri Nieddu, come lo avesse di fronte, con gelida solennità disse: «E se ti getti contro la Santa Chiesa, io, caro mio, che te posso fare? Niente. Ti dico solo che sei morto nel cuore degli amici». Stettero in silenzio per un momento, quasi recitassero un requiem all'uomo che nel loro cuore era morto. Poi il vecchio disse: «Diego, per qualche giorno io lo manderei fuori a svagarsi. Mi pare abbia una sorella a Genova». Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Realizzazione tecnica di Ciro Lutricuso, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.